stesso posto che ha paura ci andrà. E pochi minuti fanno male. Tu che già vi amore, ma vuoi bene solo a me. E si fa difficile sta storia, perché mi rai solo un po' di sei fatto da ardu che rivede lui. E tu mi sei nata volta, resci da una parte, da un'altra che va bene. Ma non sapevo che ti braccia si da stregne forte, pensa a me come oggi giusto. E tu scrivi un rossetto in faccia a tutti i muri, gli iniziali tutti e due, ma che va bene solo a me. Non fa tardi che stasera, non viene di nascere. Faccio a messa a casa, se ci provo una volta tu firmo le mani, giuro a me che non muovi amore. Non c'era questa occasione, appunto la camicia fino a curdo ma abbattone. Non te vado qua. Se ne resto solo questa gelosia, come quando è tieni sto giufuso. Pure senza coro stesso tutto li ha basato. E una vita pare in un minuto, ma chi qui sul dovere sta, treme paura e non lo sa lasciare. E tu passi nata a volte, lasci da una parte da qualcuno che va bene. Ma non sapevo che andi braccia si da stringe forte, pensa a me come voce giusto. E tu scrivi un rossetto in faccia a tutti i muri, gli iniziali tutti e due, ma che va bene solo a me. Non fa tardi che stasera, viene di una scusa per tornarci a presa a casa. Ma nata volta tu firmo le mani, giuro a me che non muovi amore. Non c'era questa occasione, appunto la camicia fino a curdo ma abbattone. Non te vado qua.